perché non mi accontento della vita che scorre, che scappa di mano, ma non sappiamo mai dove ci porterà. E se qualcuno qualcosa rimane, cosa potrà mai insegnare alla fine di questo viaggio? Liberami da me stesso, da un falso riflesso e dall'inganno di questa lucente realtà. Liberami prima che sia troppo tardi e il risucchio della materia mi corrompa l'anima. Che infuria, la fame che uccide, l'ennesima ingiuria di un orco che ride, ed io che mi sento bene, solo stretto da mille catene, negli occhi lo sguardo si è spento, ferito da un altro rimpianto.